Summertime di Elisabetta Fiorito. Dimmi tu piuttosto, tua moglie non è mia sorella. Tua sorella? Certo che lo è! Bene, non dividi con lei forse il potere? Certo! Io divido il potere con lei! E non lo divido anche io. Che cosa mi manca? No, no. Io non desidero affatto essere sovrano. Mi basta vivere da sovrano, come chiunque ha un minimo di saggezza. Non ho forse tutto da te quello che desidero e senza fatica poi, senza preoccupazioni di nessun genere. Se fossi io il re invece, quante cose dovrei fare contro voglia? Che vita di ansia e di responsabilità. No, no, la pazzia e la cattiveria sono una cosa sola. Io non sono pazzo per desiderare uno stato migliore di quello in cui vivo. Va tu stesso al santuario di Apollo, accertati con le tue orecchie se l'oracolo che ti ho riportato era vero oppure se me lo sono inventato io, d'accordo con Tiresia. E se me lo sono inventato, condannami pure e avrai ragione. Sì! E quello che sentiamo è un giovanissimo Carmelo Bene nel film di Pasolini e di Porré che interpretava Creonte. Perché ritorniamo su questa tragedia da Sofocle a Pasolini? Perché il nostro amico, possiamo dire, Ulderico Pesce ha scritto proprio un testo che parla di questo e che andrà in scena questa sera a Napoli nella Villa Imperiale di Posillipo. Beh, un'atmosfera molto molto suggestiva. Quindi alle 21.30 è l'appuntamento. Buon pomeriggio Ulderico. Buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori. Allora, come ti sei ispirato, perché si legge proprio Edipo Re, da Sofocle a Pasolini? Che cosa succede in palcoscenico? Succede che abbiamo, insomma, nel rispetto assoluto del mito e del testo di Sofocle, con delle aggiunte pasoliniane di tratte della sceneggiatura del film, una delle più eclatanti è proprio il parto, cioè Giocasta nel testo di Sofocle ha un piccolissimo e vago ricordo del bambino che partorì. Invece per Pasolini quel parto rappresenta un momento importante sia per Giocasta che per Edipo, ragion per cui noi l'abbiamo ingigantito e ingrandito prendendo spunto da Pasolini. Ma sono tante le modifiche al testo, nel rispetto però del testo, e devo dire che in qualche modo la cosa che ci ha colpito di più e che personalmente mi ha dato anche più felicità di lavorare, perché poi il lavoro, se non c'è felicità, è un lavoro pesantissimo, e se invece arreca felicità è un lavoro leggerissimo. Mi ha sempre colpito ed entusiasmato il fatto che Edipo, cioè Giocasta e Laio, non possono avere, cioè un oracolo dice, l'oracolo di Delfi, la massima autorità dell'epoca, dice a Giocasta e Laio: non fate un figlio, perché se avrete un figlio vi ucciderà. Però hanno un incidente e fanno questo bambino, gli legano le mani e i piedi ad un bastone di pastore e lo danno a un pastore fedele di Laio che lo deve uccidere sul monte Citerone. Ora già la cosa che colpisce è che un re, il re di Tebe, una delle più splendide città della Grecia antica, che un re sia amico di un pastore e addirittura l'amico fedele, il pastore fedele di Laio, è una cosa entusiasmante, che quale re è amico di un pastore? Cioè, bisogna proprio andare nel V secolo avanti Cristo Per scoprire queste, cioè oggi chi comanda si lega alla P1, P2, P3, P4. Ma fra poco sì, scopriremo pure la P10. Senti, esatto. Ulderico, sì. E quindi tu interpreti il pastore, sì. Poi interpreti Creonte, poi interpreti tutti i personaggi maschili. E poi vengono fuori Edipo. Tiresia, che ricordiamo che è l'indovino, e poi sì. Invece come altri attori c'è Maria Letizia Gorga che interpreta Giocasta, che è la madre e la moglie di Edipo, tanto per ricordare ai radioascoltatori, e poi c'è Maximilian Nisi che è Edipo. Certo. Allora Maximilian, è la prima volta che fai Edipo, ti sei mai confrontato con questo personaggio che poi ha ispirato Freud per la famosa teoria, no? Buongiorno a tutti innanzitutto, buongiorno Ulderico. ho preso parte a un Edipo anni fa, ma non nella parte del protagonista dell'Edipo Re, ma nella parte di Creonte, ero un giovanissimo Creonte, quindi con la regia di Glauco Mauri era Edipo Re e Edipo a Colono fusi nella stessa serata, diciamo, era un racconto completo della... Che sono i due drammi di Sofocle, lo ricordiamo, uno conseguenziale all'altro, no? Uno conseguenziale all'altro. Edipo è la prima volta che lo affronto, arrivo da un'esperienza amletica, nel senso che lo scorso anno è stato messo in scena l'Amleto dove facevo Amleto e Maria Letizia interpretava la parte di Gertrude, la madre, ecco, e penso che sia conseguenziale, ecco, poi il caso, la fortuna ha voluto che incontrassi Ulderico che mi proponesse appunto questo ruolo e devo dire che ho avuto modo di approfondire il tema, ecco, che è un tema grandissimo, non avendo grandissime risposte, nel senso che purtroppo si parla dell'uomo e di tutte quante le sue zone d'ombra, ecco, le sue domande che, come sappiamo, di risposte non ne ha. Ecco, poi tra le altre cose diciamo pure che appunto hai fatto Amleto e molto spesso Amleto, no, è stato paragonato un po' a Edipo per questa attrazione nei confronti della madre, no? Un'attrazione nel caso di Amleto sotterranea, invece nel caso di Edipo palese, perché poi si sposano e da lì nasce la tragedia. Quindi insomma sono due personaggi un po' simili in alcune cose, o no? Sì. Anche se in realtà Edipo, per come anche l'abbiamo definito e studiato, è vittima di questo illuminismo che era presente ad Atene nel V secolo, no? Che è molto simile all'illuminismo europeo che abbiamo avuto nel Settecento, questo è un uomo che ritiene di essere padrone ed arbitro del proprio destino, è sicuro, è avvolto da questa ibris, da questa superbia che lo contraddistingue, ecco, pensa di essere sicuro e indipendente da una ragione superiore, ecco, e invece poi dopo va tutto in una direzione completamente opposta e che lo ridimensiona moltissimo, ecco. Quindi l'oracolo e la deità sono sicuramente più preponderanti e presenti. Ecco. L'aspetto irrazionale, no? L'aspetto di Tiresia, sì. Ulderico? In qualche modo, no, in questo testo. Che cosa c'è? In scena si vede un tempio in ferro battuto, in ferro, con dei campanacci della transumanza che abbiamo raccolto in giro per l'Italia, dalla Liguria alla Sardegna, alla Basilicata, e sono le caratteristiche prime del mondo pastorale, no? Che è il mondo dell'infanzia di Edipo, perché questo pastore poi non lo uccide, ma lo consegnerà un altro re, il re di Corinto, che lo farà crescere, alla fine questo bambino realizzerà la profezia dell'oracolo, ucciderà il padre e si accopperà con la mamma. Bene, questi campanacci circondano il tempio e nel tempio c'è la bara di Laio, che è l'unico elemento scenico assieme ai campanacci. C'è la morte di un re giusto, Laio, un re democratico, un re amico di un pastore, del mondo della pastorizia, un re che vive in simbiosi assoluta con la natura, è un re assolutamente rivoluzionario da leggere con i tempi di oggi. Bene, Laio viene ucciso, il suo mondo violato e nasce un altro mondo che ha altre qualità, non rispetta la natura, crede che l'uomo sia l'interprete e l'artefice del futuro del pianeta e invece è l'uomo che interpreta la natura. È la natura stessa nella sua autonomia che sono gli artefici del pianeta. Volevo chiederti un'ultima cosa, una chicca. Non è che ci fate un pezzettino dello spettacolo? Ma certo, quale, Max? Forse quello di Tiresia, dai. Va bene. Tiresia entra, avverto i radioascoltatori che parlerò nella mia lingua che è di origine greco-bizantina, venendo da un paese che è greco-ortodosso. Arriva Tiresia, è ciecata, è un indovino. Sap legend dell'ale della Luciel. Arriva, s'assetto lontano dal re, più lontano che poteva. U primo che parla non è un re, Edipo, ma è Tiresia, o cecata. Parlava la stessa lingua mia e teneva una voce fonda. Lassano sta, non mi fa parlare perché non voglio fa male a nessuno. Tiresia, in te cerchiamo un salvatore. Tu possiedi tutte le cose del cielo e della terra, anche se i tuoi occhi sono ciechi. E la tua mente vedi quale peste vive in questa città. Salva te stesso, il tuo paese, salva noi. Noi tutti siamo nelle tue mani. Non farci perdere tempo, Tiresia, parla e dici tutto quello che sai. Non dacci più niente. Hai già serrata la bocca. Tu sai e non vuoi parlare. Vorresti abbandonare la città e la sua rovina? Lasciamo sta. Che cosa accadrà di tanto terribile? Parla. Anche un cuore di pietra manderesti in furia. Guardate da Ind. Le cose succederanno. E noi non ci potemmo fa nodo. E allora parlerò io e dirò tutto quello che sospetto io. Io sono Edipo, il più famoso tra gli uomini, e nessuno può ingannarmi. È chiaro che sei stato tu a progettare il delitto. Certo, l'hai o non l'hai ucciso tu perché sei cieco. Ma se avessi avuto la vista degli occhi direi che anche questo avresti fatto tu. A ricordo te l'hai detto che è scritto e fermato prima andando a tutto. Si tu la pesta. Tu si la pesta. Ta contamina. Io vi ringrazio perché questo è veramente un radiodramma. Avete fatto un radiodramma in diretta. Poi c'erano questi frusci del telefonino che danno questa idea proprio della radio anni 50. Io è un pezzo di storia radiofonica riproposta. Io vi ringrazio e abbiamo sentito Ulderico Pesce, Maximilian Nisi, in Edipo Re da Sofocle a Pasolini, una riscrittura di Ulderico Pesce che questa sera sarà alla Villa Imperiale di Posillipo a Napoli alle 21:30, ma per andare in scena anche tutto agosto e il 3 agosto sarete a Capo Vaticano Ricadi, poi il 4 al Chiostro di San Francesco a Castel del Buono, il 5 al Teatro Romano di Segesta, il 12 al Teatro Romano di Pietra Abbondante, il 14 all'Anfiteatro di Grumeto Nova e il 16 a Parco Tarantini di Maratea. L'ho detti tutti. Io vi ringrazio, grazie infinite di questa chicca e mi raccomando, non si dice nulla, no? In bocca al lupo. In bocca al lupo e che crevi. Grazie dell'invito, un bacio grande grande. Summer time. Gli occhi di quest'uomo, dicevo, sono gli occhi del maschio di sempre, che deformano tutto ciò che vedono nello specchio della derisione e della beffa. Il mascalzone è sempre lo stesso. Noi donne siamo solo dei pretesti per permettergli di raccontare ancora una volta il suo bestiario, il suo circo, il suo avanspettacolo nevrotico, e noi lì a far da pagliacce, da bayadere, da marziane. Insomma, questa era Fellini nella Città delle Donne, no? Uno sfogo sulle donne. E questa sera, sempre per parlare di quello che pensano le donne, di come sono e delle varie visioni femminili della vita, a Via Flaminia 118 ai Giardini della Filarmonica per i solisti del teatro abbiamo uno spettacolo proprio scritto da Gabriella Schina, La stanza delle donne, con la regia di Luciano Melchionna. Buon pomeriggio Luciano. Buon pomeriggio a tutti. Allora, di che cosa parla? Perché io vedo tantissime attrici: Marianella Bargilli, Tiziana Avarista, Valentina De Giovanni, Antonio Renzella, Federica Stefanelli, Adele Tirante e Nella Tirante. Tu sei l'unico uomo che fa la regia. Non ne posso più, liberatemi, vi prego. Io sto facendo il carceriere praticamente per far vivere fino in fondo questa esperienza alle attrici, ma anche al pubblico, perché adesso vi vado a narrare. Però in realtà sono loro che mi tengono in carcere, eh? Aiutatemi, sono circondato da donne. Bellissima questa citazione che avete fatto da Fellini, meravigliosa. E questa è la mia assistente Gloria Guerrera che... Complimenti di cuore, bellissima. Devo dire, insomma, parliamo questa sera per 50 minuti, non di più, di spettacolo, perché ritengo, insomma, che tirare un pugno o uno schiaffo sia sufficiente, no? Farlo velocemente ma che lasci il segno. E perché non si rida soltanto d'estate, c'è La stanza delle donne questa sera, ambientato in un campo di concentramento della guerra in Bosnia nel 92. Ora, detta così spaventa e chiunque direbbe no, non mai e poi mai. Invece devo dire che sono 50 minuti molto molto intensi con le mie attrici veramente straordinarie, che ci regalano un pezzettino di storia assoluta, però che diventa universale, nel senso che così sappiamo che cosa è accaduto in una guerra della quale si è parlato pochissimo, ma soprattutto così non dimentichiamo. Noi continuiamo a fare questo spettacolo e vorremmo continuare a farlo proprio perché è importantissimo raccontare di questi campi di concentramento dove avevano istituito le stanze delle donne, cioè luoghi dove venivano messe le donne più belle al servizio dei bisogni degli uomini. E questo è tipico dei campi di concentramento, no? Lo facevano anche i nazisti. Esatto. E poi sappiamo che la guerra di Bosnia è stata caratterizzata anche da questi stupri etnici, che è un'altra caratteristica. Etnica, tanto che di recente è diventato crimine di guerra finalmente lo stupro. E il percorso è fatto dalla protagonista. Che è Marianella Bargilli? Che è Marianella Bargilli, sì, devo dire, è un'altra attrice. Ci siamo avvicinati da poco, ma sono già molto felice del lavoro profondo, intenso che si riesce a fare con un'attrice umanamente così sensibile. E ci racconta della sua esperienza nella stanza delle donne, degli orrori visti, ma ce lo racconta attraverso la sua esperienza appunto di donna, le sue emozioni e il percorso verso la vita in qualche modo, che poi è come dire, associato alla gestazione. Nel senso che molto spesso, ovviamente, per pulizia etnica, si intende anche questo, rimanevano incinta. Certo, era fatta apposta, no? Perché esatto. Così venivano ripudiate. Luciano, noi ti ringraziamo, ricordiamo, ti seguiamo sempre come tu ben sai. Allora, questa è la regia di Luciano Melchion, La stanza delle donne, un testo di Gabriella Schina, protagonista Marianella Bargilli, questa sera ai Giardini della Filarmonica Romana a Roma, a Via Flaminia 118. Grazie Luciano. 50 minuti intensi, veramente da non a perdere. A che ora? Alle 21? Alle 21.30. Alle 21.30, perfetto, Io grazie. Aspetto, grazie a te. Sappiamo tutto di te, tu sei il pagliaccio, il marziano. Sorelle, guardate come si nasconde. Fino al 1° agosto Monte Fiascone ospita la 4ª edizione di Est Film Festival, un programma ricchissimo e davvero speciale. Le cornici del festival sono il centralissimo piazzale Frigo, la splendida Rocca dei Papi con le sue due sale, l'enoteca e giardini, e da quest'anno anche Largo Plebiscito con la neonata sezione del Dopo Festival. Quindi tutti a Monte Fiascone in provincia di Viterbo dalle 10 di mattina alle 2 di notte. Il cinema è veramente l'esclusivo protagonista. E chi se non lei, se non la nostra Marta Cagnola, poteva andare a curiosare al Monte Fiascone Est Film Festival? Intanto ha intervistato Valentina Carlenutti, protagonista del Dopo Festival di oggi, 29 luglio, perché reciterà un monologo teatrale Gola di Mattia Torre. Non avevo la più pallida idea che avrei fatto questa cosa. Cioè, da Monte Fiascone mi hanno chiamato per chiedermi di fare una serata, una lettura, e io ero abbastanza incerta, cercavo qualcosa che fosse da una parte condivisibile da un punto di vista etico, quindi qualcosa che dicesse qualcosa di specifico per il momento che secondo me è terribile che stiamo vivendo culturalmente nel nostro paese, e al tempo stesso non volevo far passare al pubblico una serata pesante. E quindi mi sono messa a leggere un po' di cose e tutto quello che leggevo mi sembrava o troppo superficiale o troppo come dire, faticoso e impegnativo, e quindi stavo quasi per dire no, non vengo. Poi mi sono messa a pensare e mi sono ricordata che avevo ascoltato questo monologo di Mattia Torre qualche anno fa, e non mi ricordavo più chi l'avesse letto. Sono andata a cercare su internet perché avevo dei ricordi un po' vaghi e ho scoperto che l'hanno interpretato donne e uomini, attori fantastici di ogni sorta. E quindi ho telefonato a Mattia Torre e gli ho spiegato la situazione. Lui mi ha detto sì sì, assolutamente, prendilo e vai. E così è stato il mio incontro. Infine la nostra Marta Cagnola ha ascoltato Ago Panini, vincitore della scorsa edizione, che è presidente della giuria dell'Est Film Festival di Monte Fiascone, e incontra il pubblico il 30 luglio, quindi domani. Qui in realtà me lo sono fatto solo una notte, e avevo trovato questo oasi di cinema, di cultura, di gioventù, che sono tutte parole strane nell'Italia di oggi. Però è vero, cioè voglio dire, tutto il team organizzativo del festival ha meno di 30 anni e il festival è una cosa fantastica, funziona benissimo, come dire, la selezione dei lavori è di altissima qualità, eccetera, eccetera. E poi appunto hanno avuto il coraggio di premiare un film come il mio, che è un film che ha vinto un sacco di festival, più all'estero che in Italia, e soprattutto è un film che molta parte della critica, se vogliamo un po' più becera italiana, ha bollato come non sembra un film italiano. essere lì credo che sarà un'esperienza assolutamente interessante e appagante. Essere chiamato a fare il presidente della giuria ovviamente è difficile, ma la cosa che so è che loro vogliono comunque il mio parere, oltre a quello degli altri giurati ovviamente, sapendo che io ho una visione del cinema e di come farlo e soprattutto come distribuirlo, come gestirlo, non in linea con quella che è, diciamo, la visione ufficiale standard della cinematografia in Italia. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it o che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it e così vedere quali sono gli appuntamenti della serata. Per quanto mi riguarda, una buona serata a tutti.